caratteri funesti, io non traveggio già. O ciel che leggo, sarà l'ira placata se dorilla il piton sacrificata ne muore in quest'istante. Oh, ma infelice, come dorilla impasto al mostro, deitato non sei, di cielo no, ma dell'inferno in cui nemico l'om per un barbaro costume di chieder sangue oman. Ma e chi è d'invano che non è già per te quel di Dorilla, illustre ed innocente, e le figlia d'Admeto ed è quel re pur nome ancora in terra, non devo vederlo insano, comando che lo vuol, e più inumano. Questi inutili voci che al cielo ti fan reo, te tronca il miro. Cara parte del cor, figlia diletta, vieni fra queste braccia, del padre agonizzante prendi l'ultimo amplesso. Figlia Dorilla, assenti, come dal petto fuori mi balza il cor. Oddio, desidero fra obbedir, sì, anne,